Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio e ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio, come vi ha ricordato anche la nostra sigla, dalle 18 alle 20 sui 91.4 FM a Barcellona. Radio Contrabanda anche in streaming dalla nostra web e poi ovviamente ci sono i podcast, li potete scaricare dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Lì trovate più di 10 anni di podcast di Zibaldone e trovate tanti speciali che abbiamo fatto in questi anni, lo speciale natalizio, insomma con le canzoni di Natale, mettiamoci molte virgolette, le canzoni dell'estate, sempre con cui ci salutiamo prima della pausa estiva verso la fine di luglio, cose sul cantautorato eccetera, l'Italia canta in spagnolo, una serie di 10 puntate con artisti italiani che dagli anni 50 all'attualità hanno cantato le loro canzoni in spagnolo, interpretate da loro. Bene, quest'oggi vi proponiamo un nuovo speciale, non vi dico di che si tratta, forse insomma pensando alle date l'avete già capito, forse ascoltando questa canzone lo capirete ancora di più. Poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà. L'amore è come un'erica che ci porta via e chissà dove si giungerà. Un valzer prima di cena, un posto all'ora del tè e un tango bella catena della notte per te e per me. Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà. All'ora del tè e un tango bella catena della notte per te e per me. Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà. Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà. L'amore è come un'erica che ci porta via, ogni tormento scomparirà. Beh, a me è venuta un po' voglia di ballare, non so se perché venerdì pomeriggio, insomma sta per cominciare il fine settimana. Allora voi vi domanderete, ma che puntata speciale fanno quelli di Zibaldone in questo 3 febbraio? Una puntata per esempio speciale su Marino Marini e il suo quartetto, che era l'artista che cantava questa Basta un poco di musica? No, una puntata speciale sulla musica degli anni 50 perché questa canzone era del 57? No, nemmeno quello. Banzo, buon pomeriggio, bentornato a Zibaldone. Per favore, spiega tu ai nostri ascoltatori che puntata speciale è quella di quest'oggi. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, sono qui per risolvere l'arcano. Beh, siamo a inizio febbraio, quindi è quel momento dell'anno, proprio quel momento dell'anno nel quale l'Italia intera si stringe intorno alla Cremonese. No, alla bella musica italiana e a specialmente un luogo per farlo, cioè l'Ariston. Ovviamente sto parlando del Festival di Sanremo, che insomma un italiano sa benissimo che cos'è, che si terrà la prossima settimana, ed è appunto anche interessante specificare perché abbiamo voluto anticiparlo, perché non abbiamo parlato spesso di Sanremo, non direttamente, non l'abbiamo mai preso di petto, perché di Sanremo si parla troppo e in una prospettiva troppo appiattita sul presente. Vedi ad esempio le persone che guardano le puntate commentando compulsivamente su Twitter ogni 5 minuti. Quindi ecco, per dovendo parlare di Sanremo, abbiamo cercato un modo interessante e con una prospettiva diversa per farlo. È sorta questa idea e dopo un grande lavoro del nostro Fausto De Salvia, che a breve si unirà a noi, è nata questa puntata che si intitola Respinti all'Ariston, appunto, dove per Ariston si intende il Festival di Sanremo in quanto tale, perché si è svolto anche in altre location in tempi remoti. Al casinò. Sì. Esatto, e quindi perché Respinti all'Ariston? Oltre al fatto che il titolo è una citazione di Respinti all'uscio degli Offlaga di Scopax, che con Sanremo non c'entrano nulla. Semplicemente, siccome quando si parla di Sanremo si cerca le canzoni strane o bizzarre che hanno partecipato a Sanremo, eccetera, e c'è comunque un bacino di, suppongo a questo punto sarà fra i 1500 e i 2000 pezzi, comunque abbiamo pensato sarebbe interessante vedere un po', di fare una panoramica su canzoni che hanno cercato di partecipare a Sanremo ma ne sono state escluse. Quindi, insomma, sono mondo... i respinti dal Festival di Sanremo, insomma, per dirla. Esatto, e si tratta di un mondo, ti ho sentito vagamente sbigottito, Steven, potenzialmente infinito e spesso poco tracciato. Non esiste una mappatura chiara, perché e la facciamo appunto, noi, dicevo, la facciamo noi a Zibaldone. Esattamente. Molto approssimativa, perché spesso non si trovano i dati. Ecco, con le canzoni che hanno effettivamente partecipato a Sanremo credo sia sufficiente una ricerca su Wikipedia, però effettivamente canzoni escluse il lavoro è stato diverso, come magari ci spiegherà più tardi il nostro Fausto. Effettivamente, bravissimo Banzo, un'ottima presentazione di questo, hai svelato l'arcano. Allora, io non perdo tempo perché ci sono tante canzoni in queste due ore di Zibaldone che vogliamo farvi sentire, dalle prime edizioni degli anni 50 come questa di Marino Marini, che fu inizialmente ammesso alla gara, però fu poi escluso all'ultimo momento, di Basta un poco di musica, magari qualcuno conosce invece una versione di buon successo che non era di Marini ma di Natalino Otto. Noi andiamo, Banzo, subito a bomba con un'altra canzone, entriamo negli anni 60, proprio il 1960, con questo brano di Claudio Villa, Sempre più solo, che non ha partecipato nemmeno questo a Sanremo. Sera d'inverno fredda e silenziosa, la neve copre tutta la città, brilla una luce calda in ogni casa, tutti riuniti, che felicità. Io son solo, sempre più solo, e solo al mondo ormai per sempre resterò. son di nessuno e più a nessuno. Giocare col mio cuore permetterò. Oh stelle che dall'alto mi guardate, vi prego ancora no, non mi lasciate, perché son solo, solo perché nessuno al mondo vuole saperne più di me. Che cosa vuol dire? Mi pare di capire che sempre più solo sarò. Perché son solo, solo perché nessuno al mondo vuole saperne più di me. Che cosa vuol dire? Mi pare di capire che sempre più solo. Sempre più solo, Claudio Villa, vabbè, una voce inconfondibile. Do il benvenuto anche al nostro Fausto De Salvia, che molti di voi insomma conoscono soprattutto per essere l'autore di quelle geniali ultimissime che ci accompagnano praticamente ogni venerdì. Fausto, grazie di essere tornato con noi a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. È sempre bello partecipare agli speciali di Zibaldone. Ho partecipato a quello natalizio, a uno di quelli estivi, quindi adesso inauguriamo una nuova, spediamo una nuova lunga serie di speciali. Sanremaschi. Diciamo, esatto, sanremesi, sanremaschi, esatto. Anzi, forse non dovremmo dire neanche sanremaschi, perché magari non sono neanche arrivati alla porta dell'Aristo, ma manco li hanno fatti arrivare a Sanremo questi artisti, tra cui appunto... Nei pressi. Nei pressi, insomma, sono rimasti verso Imperia, dai, diciamo. 20 miglia. Ascolta, Fausto, è abbastanza paradigmatico, strano anzi direi, che Claudio Villa invece sia rimasto fuori dalle porte dell'Ariston. Beh sì, perché nel 60 lui aveva già vinto due volte, però subiva già la concorrenza di Modugno, che aveva vinto nel 58 e nel 59 e che era emerso come l'astro nascente del nuovo cantautorato. E vedi che alla fine anche Villa sceglie di provare anche lui a diventare cantautore, perché questo pezzo è firmato Claudio Pica, e Claudio Pica, l'anagrafe ovviamente, è il vero nome di Claudio Villa. E la cosa curiosa è che questo brano è arrangiato da tale Luis Enriquez, che ovviamente è Luis Enriquez Baccalo, famosissimo ovviamente, che per un anno, dal 59 al 60, fu il suo pianista, quindi in realtà faceva gli arrangiamenti dei suoi brani, e fra cui questa ritmatissima Sempre più solo, che sull'etichetta del disco è indicata come slow rock, quindi anche Claudio Villa si era dato al rock a modo suo, ovviamente. Eh sì, insomma, magari stava guardando un po' al suo rivale Modugno, proprio che, come hai detto bene, aveva vinto l'edizione anteriore di Sanremo. E nel 1960 un altro grande nome dell'epoca, magari insomma da molti anche sminuito, poi in realtà che è stato riscoperto negli ultimi 20-30 anni, Fred Buscaglione era respinto dall'Ariston con questa molto bella e ben conosciuta, perché ci sono state tante versioni, Nel cielo dei bars. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, illusione che non so dimenticare. ogni notte ti devo ritrovare nel mio cielo popolato di bar. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, dolci labbra che non posso più baciare. Voglio perdermi e sognare fino a quando può brillare tristemente l'orizzonte d'ogni bar. Da principio non ti vedo, troppo whisky mi separa da te, ma poi bevo e a poco tu mi appari e sei tutta per me. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere, fino a quando l'alba in cielo tornerà e nell'alba disperata sarà triste rincasare per attendere la notte e poterti ritrovare al fondo d'un bicchiere nel cielo dei bar. Ma che bella questa canzone. Io vabbè, ho un debole per Buscaglione, è una canzone bellissima. Banzo, ascolta, dobbiamo dire qualcosa, perché insomma, lasciato fuori Buscaglione, ma tra l'altro con una coincidenza davvero drammatica in quel 1960. Esatto, perché si tratta di una canzone che è uscita postuma, era una canzone presentata al Festival di Non Annessa, e fin qui siamo nell'ambito del nostro speciale. Buscaglione comunque l'ha incisa e l'ha inserita nel film che stava girando in quel periodo insieme a Totò, Noi Duri, però entrambe le edizioni, cioè il film e la canzone, usciranno postume per la morte di Buscaglione il 3 febbraio di quell'anno. Il brano comunque... Proprio quest'oggi, ricorre proprio i 63 anni della scomparsa di Buscaglione, praticamente in coincidenza, esatto, con il Festival di Sanremo. Vero, sì. Non ci avevo fatto caso, è un buon omaggio a questo grandissimo, che, al quale gli omaggi non sono mancati, ma neanche stroppiano decisamente. E potremmo dire del brano che è stato ripreso da Milva, da Ornella Vanoni e anche da Mina, tutte voci femminili fra le più importanti della musica italiana. Però se mi lasci un brevissimo spazio, sì, sì. Steven, vorrei cominciare un discorso che Fausto non ha affrontato nel suo precedente intervento, cioè... come, perché lui è sempre concentrato sul pezzo letteralmente, su come sono state selezionate le canzoni, e volevo sottolineare che il lavoro di selezione iniziale è stato tutto farina del suo sacco, molta farina e molta crusca a monte, perché appunto con le canzoni partecipanti è relativamente facile, con le canzoni escluse bisogna cominciare una ricerca nelle emeroteche online in questo caso, e molto spesso non è che venga dedicato molto spazio a questa tematica, e a volte vedremo ad esempio in edizioni successive come questo tema quasi sparirà fino al punto di non trovare titoli papabili. Però appunto il problema è che quando si cerca in materiale su questo tipo, su questo argomento, molto spesso negli articoli della stampa italiana venivano citati gli artisti che erano più importanti in quel momento di una canzone che nessuno conosceva, certo, perché dovevano essere canzoni inedite, quindi ovviamente la dimensione del pezzo in sé veniva completamente soverchiata da quella dell'autore o interprete. Ma poi, come vedremo, molte di queste canzoni hanno avuto un successo commerciale ragguardevole. Questa stessa canzone di Buscaglione, chiedo scusa, lapsus assurdo, è diventata molto famosa, e vedremo altri esempi, ma scopriremo anche alcune canzoni che sono rimaste praticamente allo stadio di provino. Andiamo avanti negli anni 60. 1965, La Verità è cantata da un non da un artista italiano, cantava però in italiano, Polanca, dopo vi spieghiamo il perché. Chiederà come è finita tra di noi, digli pure che è stata colpa mia, vuoi davvero dimenticare, digli che ti ho fatto tanto male. Non male questo pezzo, c'ha veramente un bel sound. Fausto, qui erano gli anni 60, metà degli anni 60, gli grandissimi anni di Sanremo, del grande successo, insomma, dal 58 come minimo fino al 1969-70, e negli anni in cui, tra l'altro, insomma, si lanciarono i duetti tra artisti italiani e artisti stranieri. Esatto, i duetti con artisti italiani e artisti stranieri cominciano nel 64 e testimoniano il fatto che Sanremo è ormai un fenomeno di rilevanza internazionale, perché le canzoni di Sanremo non vengono pubblicate in edizioni dal Giappone fino al Sud America, quindi è la testimonianza di questo successo è dato proprio da un abbinamento con artisti di fama internazionale. Polanca era già notissimo, aveva già partecipato a Sanremo appunto nel 64 e nel 65 deve tornare per la seconda volta in gara. Solo che la RCA, la sua casa discografica, vuole un po' rompere le regole, perché vuole presentare 5 artisti in gara quando il regolamento ne permette all'epoca 3 per casa discografica. Ovviamente qualcuno deve saltare. Alla fine sembra che saltino Edoardo Vianello e Gino Paoli. Polanca sarebbe in gara, però per ripicca l'RCA ritira tutti quanti e quindi in quel Sanremo non ci sarà nessun artista dell'RCA in gara, e quindi questo pezzo che ha delle firme di rilievo, perché ci sono musica di Trovaioli, Bardotti il testo, musica di Trovaioli con Carlo Pes, che è l'autore del Mondo di Jimmy Fontana, quindi parliamo di numeri uno, e questo pezzo quindi rimane, sì, avrà un suo successo, però naturalmente manca la ribalta, in questo caso è escluso dalla casa discografica, non dalla commissione che invece inizialmente lo aveva ammesso. Eh sì, andiamo avanti. Adesso troviamo, prima parlavamo di provini, insomma cose un po' più strane, più peculiari, più introvabili. Ecco, sentitevi questa canzone di Bruno Lauzi, è stata respinta dal Festival di Sanremo nel 1968, si intitola Sul Metrò, eccola qui. Ti incontro stamattina sul metrò con il tuo palto rosso. Ti seguo per vedere dove vai, venirci anch'io se posso. Ma tu non m'hai visto leggere il giornale come se fosse scritto da Alighieri dentro il giornale che ha stampato ieri. Ho fatto due bei buchi per guardarti meglio, adesso arriva un altro tizio un po' così, gli dici sì e scendi. Ti porta a casa sua con un tassì, magari ti offre un brandy. Allora c'ho un dubbio, forse tu non hai capito il sistema. Quando cerco di chiamare i pompieri, oramai sei già partita per andare a Santa Margherita con lui. La la la la la la la la la. La la la la la la la. Allora c'ho un dubbio, forse tu non hai capito il sistema. Quando cerco di chiamare i pompieri, oramai sei già partita per andare a Santa Margherita con lui. La la la la la la la la la la la la la la la la. È molto bello questo brano di Bruno Lauzi sul metrò, che però Banzo è stato escluso anche questo dall'Ariston in un anno insomma magico, il 1968, di cui in realtà si parlava ben di altre cose, ecco dai, diciamo. Sì, beh, il mondo era occupato, però Sanremo andava avanti e non era ancora entrato nella sua fase più problematica. E il brano è incredibilmente gradevole, però parla di uno stalker alla fin fine, perché è fuori di metafora, ecco, che poi non è neanche una metafora. E in quel periodo non esisteva forse il termine, sicuramente non esisteva il termine in Italia, e anche il concetto era più sfumato, ecco. Un brano. Lauzi ha una carriera lunghissima, ha partecipato però come interprete a Sanremo solo una volta nel 65, e sono più rilevanti le sue apparizioni come autore, per esempio Almeno tu nell'universo di Mia Martini, 1988, canzone che insomma se si è nati e cresciuti in Italia non dovrebbe aver bisogno di presentazioni. E sostanzialmente questo brano che abbiamo appena sentito è stato poi reinciso nel 1968 da Ricky Gianco e nel 1970 da Iannacci. Ascolta, rimaniamo nel 68 perché c'è stato un altro escluso famosissimo, non vi dico chi è, vediamo se riconoscete la voce, ma credo che insomma in 5 secondi capite subito chi è che interpreta questa canzone. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi: così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. E ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ma che bello questo brano di Domenico Modugno, che avete riconosciuto senza ombra di dubbio. E quello che mi domando, Fausto, è: ma com'è possibile che a Sanremo, è vero che gli anni 60, insomma, c'era tanta scelta, c'erano tanti artisti e tante cose, ma com'è possibile aver lasciato fuori questo brano, eh? Me lo chiedo anch'io, però sai, la tematica accennata all'inizio del tentato suicidio non credo che piacesse tantissimo alle commissioni selezionatrici, credo che abbia molto influito. Diciamo che con questa esclusione comincia un po' un periodo di minore successo commerciale di Modugno, che si protrarrà più o meno fino al 72, quando esce La lontananza, che è un grandissimo successo, lo riporta. E paradossalmente come brano è quasi più conosciuto in Italia per la versione che ne hanno fatto i Negramaro, ormai più una quindicina d'anni fa, nel 2008, e curiosamente è diventato uno dei brani più noti di Modugno solo dopo questa cover, curiosamente. È stato riscoperto, come a volte succede. Sì. Esatto, capita spesso comunque. Noi andiamo avanti di un paio d'anni e troviamo un'altra artista molto conosciuta, Nada, con questa La fotografia. Dopo ci racconterai qualcosa anche su questa canzone, Fausto. Certo. Sono qui sul mio letto, sai, sto piangendo, ma tu dove sei? Sei con me, come stringe il cuore quando penso che tu, che tu m'hai baciato e sei Strange. lacrime, brucia gli occhi miei, la fotografia è ancora qui. No, non puoi, grida il cuore mio, non strapparla così, perché solo lei ti fa è molto bello anche questo brano di Nada, che tra l'altro, Fausto, ha anche una particolarità, ossia Nada nel 1970 in realtà al Festival di Sanremo partecipò. Esatto, perché c'è anche questa particolarità di Sanremo in quegli anni, che non solo presentavi il brano e te lo potevano bocciare, ma magari ti ammettevano in gara lo stesso, però ti abbinavano, c'era appunto l'abbinamento, a un altro artista. Quindi Nada in realtà a Sanremo 70 c'è stata, però lei aveva portato un brano con il testo scritto proprio da lei, e pensare che aveva 16 anni, poco più, quindi davvero giovanissima, però aveva questo testo anche significativo, perché comunque considerando la produzione pop di quegli anni, la musica è dei fratelli Capuano, uno potrebbe pensare chi sono, sono quelli che hanno scritto Sono Tremendo per Rocky Roberts, oppure in tempi più recenti Andamento Lento per Tullio De Piscopo, quindi parla comunque di pezzi veramente conosciuti, però sai, gli autori della musica in genere non vengono sempre ricordati, e in questo caso lei ha provato a fare la cantautrice, poi ci è riuscita molti anni dopo, perché sì, Nada è diventata cantautrice dopo l'esperienza poi con Nada Trio, che l'ha lanciata nell'ambito della canzone d'autore molti anni dopo. Ricordiamo l'exploit poco prima di Ma che freddo che fa, che l'aveva fatta conoscere, Ma che freddo fa Nada nel 69 se non erro proprio, e poi appunto la partecipazione con Ron Rosalino Cellammare, e questa fotografia finì sul lato B di quei 45 giri, con il lato A era la canzone che cantarono a Sanremo, Padiglielo a Ma. Andiamo avanti di un anno e troviamo anche qui una canzone in realtà che ha avuto molto successo, sentitela, poi ne parliamo. Oh! Quando ero bambino questa canzone mi piaceva tantissimo, e anche Singapore dei Nuovi Angeli. Banzo, questa canzone è anche stata respinta tra l'altro a un autore, almeno uno dei tre autori tra testi e musica molto conosciuto, importante, che è Roberto Vecchioni, che si conosce per, diciamo, altre esperienze musicali. Non è facile collegarlo a queste canzoncine così leggere che ci fanno pensare alla bella Italia di una volta. Poi era il 1971, un periodo politicamente molto teso. Ecco, Donna Felicità è interessante come esempio di canzone non ammessa al festival, forse per il testo potenzialmente licenzioso, non è dato sapere, ma che poi ottenne un successo incredibile, perché la ricordiamo tutti, al Festival Bar dell'anno successivo. Ecco, il Festival Bar, una manifestazione musicale che non ce l'ha fatta, ormai è una quindicina d'anni che non c'è più. Sì, è vero. Rimaniamo a inizio anni 70 con un'altra canzone un po' così estiva, godereccia, diciamo, ballabile, o come diceva il signor Caccamo, pallabile. Piero Focaccia, anche lui respinto con Il sabato a ballare. Sentitevela un po', vediamo se la riconoscete. E tutti i santi giorni, signore, io lavoro da lei. Ma adesso veramente una questione personale l'avrei. La settimana corta va bene, però c'è già un problema di più. Il sabato a ballare, domenica non so cosa fare. Da tempo faccio il filo a un apprendista che lavora da lei. Non sono certo il tipo che dichiara non mi sposerò mai. Il posto di lavoro è sicuro se penso solo agli affari miei. Sabato a ballare, domenica non so cosa fare. Ma lunedì lavorerò e tornerà il sorriso. Per sempre mi guadagnerò un posto in paradiso. Io credo a quel che dice lei, bisogna avere fede. Santi giorni, signore, io lavoro da lei. Per nessuna cifra questo mondo io da qui me ne andrei. Domani ci vediamo alle 8, sarà così fino a venerdì. Il sabato a ballare, domenica non so cosa fare. Personale l'avrei. La settimana corta va bene, però c'è già un problema di più. Il sabato a ballare, domenica non so cosa fare. Il sabato a ballare, domenica non so cosa fare. Nel 1972, Il sabato a ballare, Piero Focaccia. Banzo, dicevi fuori onda, ed ha ragione, una canzone un po' che ha, insomma, suona un po' Adriano Celentano. Sì, le atmosfere possono ricordare certi brani del Molleggiato, anche se poi si tratta di un brano scritto da Bruno Lauzi come autore del testo e dai fratelli La Bionda, quindi pensa che strano giro alla fine. Canzone esclusa da Sanremo, che però partecipa, ovviamente, perché se non saremmo qui a parlarne, però partecipa a un disco per l'estate, ecco, ancora più archeologico del Festival Bar. Poi due brevissime curiosità. Beh, innanzitutto buon compleanno a Piero Focaccia, che compie gli anni il 5 febbraio, saranno 79. Auguri. E poi segnalare, andatevi a cercare la copertina di questo singolo per un primissimo piano di Piero Focaccia con delle basette che ci faranno rimpiangere il passato, veramente. Sì, basette e baffi. Andiamo avanti, andiamo al 73, che è un anno importante in questa carrellata, perché ci sono ben tre canzoni che vi proponiamo escluse, e tutte di artisti, voglio dire, molto famosi, molto rinomati o molto apprezzati. Cominciamo con questa canzone qui, non vi dico di chi è, la conoscerete perché ha avuto molto successo, e soprattutto è famoso l'artista che la canta, e la sua voce è inconfondibile. Un'auto vecchia torna, da Scilla a Torino. Dentro ci sono 10 occhi ed uno stesso destino. Il bambino ha una palla e l'aspetta al cortile, con il mezzo poco sole d'aprile. Il ragazzo in feriate catene, ha 20 anni, son 20 anni di pene. La ragazza venduta per ore, nella campagna avuta sangue e sudore. La madre è una forma disfatta, sopra gli occhi ha i capelli di latta. Il padre è uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato. Il paesaggio ha un'Italia sventrata, dalle ruspe che l'hanno divorata. Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato, con terre e sassi dentro il filo spinato. Questo luogo del cielo è chiamato Torino, lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve. Sul cristallo verde del Valentino, illuminate tutte le sponde del Po. Mattoni su mattoni, sono condannati i terroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni. We'll be right back. Madonna mia, che pezzo meraviglioso. Ovviamente Lucio Dalla, un'auto targata a To, la collaborazione con Roberto Rovere si era già iniziata. Fausto, tra l'altro, insomma, sembra abbastanza inconcepibile che con un brano così bello, e tenendo conto il successo che aveva avuto negli anni precedenti con Piazza Grande e 4 marzo del 43, Lucio Dalla sia stato escluso con questo brano da Sanremo. Eh già, invece è successo. Io penso alla fine che Dalla abbia provato comunque a fare il tentativo di mandare il pezzo per vedere cosa succedeva, perché sicuramente il rapporto con Roversi era talmente rivoluzionario rispetto alle cose che aveva scritto prima, che probabilmente sapeva di sconvolgere comunque il pubblico che si era appena appena conquistato. Quindi invece abbiamo questo bellissimo brano, il brano finirà nell'album Il giorno aveva cinque teste, quindi comunque verrà pubblicato, però ovviamente non avrà la possibilità di comparire a Sanremo, come anche il brano ovviamente che segue naturalmente, Steven. Eh sì, quello di Rosa Balistreri, Terra che non senti. Qui accenniamo, esatto, qualcosa, perché tra l'altro è particolare, perché in realtà a Sanremo questa canzone si ascoltò nel 73. Sì, si ascoltò nella piazza centrale di Sanremo, perché la Balistreri, cantastoria siciliana fra le più note ovviamente conosciute, era stata ammessa a Sanremo ma squalificata all'ultimissimo momento, perché il brano era già stato eseguito in televisione pochi mesi prima. Fra l'altro furono dei cantanti esclusi che fecero un esposto. Rosiconi, direbbe Salvini. È sempre stato a terra di carte bollate fin dalle origini, quindi davvero fino ai tempi più recenti, e anche in questo caso il brano viene escluso ed è, anche questa è una piccola perla, con una piccola parte in italiano, ovviamente il testo interamente in dialetto siciliano. Terra che non senti, Rosa Balistreri. Maledetto momento che rapevo l'occhio in terra, da st'inferno. Quanto anni di tormento, con lo cuore sempre in guerra, notte e giorno. Terra che non senti, che non puoi capire, che non dici niente, vedendomi morire. Terra che non senti, piangi chia, ninna, oh, oh, ah, oh, oh, ah. Con nanna che ti inchiova sopra croce, da speranza. Maledetto che ti incanna promettendoti la luce e la fratellanza. non senti, che non vuoi capire, che non dici niente, credendo ci morire. Terra che non tieni, chi vuole partire e non gli dai nulla per farlo rimanere, per farlo rimanere. Terra non E in quel 1973 non solo furono esclusi Lucio Dalla e Rosa Balistrieri, che insomma dice inconcepibile, ma un brano invece che era stato ammesso alla fine viene ritirato all'ultimo. È questo qua, un bel funky, sentitevelo un po', riconoscerete subito la voce dell'interprete. Insomma, è un bel funk per questo brano, con un testo un po' come sempre faceva il molleggiato Banzo, che insomma buttava lì qualcosa di critica sociale, ma a modo suo, no? Bah, insomma, sì, in questo caso, se mi lasci esprimere un'opinione personale, abbastanza fastidioso il contrasto fra la parte musicale, che è super trascinante, un funky incredibile, potrebbe essere James Brown, e la solita retorica di Celentano, che per carità affronta anche temi importanti, però lo fa con quel misto di superficialità, supponenza, che poi forse raggiunse il suo apice col film Joan Lui, che è, insomma, una caratteristica, e la serie Adrian molti anni dopo, nuovo apice. Però insomma, ecco, questo è il personaggio. Peraltro qui Celentano si autoelimina, rinuncia lui alla partecipazione. Sembra che il motivo vero fosse per protestare contro l'eliminazione di grandi nomi della musica italiana, ma in realtà adduce come scusa una leggera gastrite. La qualcosa fa riderissimo considerando la tematica del pezzo, ecco. Effettivamente, hai completamente ragione. E Fausto, a questo proposito, io credo che ci stia anche una riflessione. Gli anni 70 sono gli anni del festival in studio, insomma, il festival se ne parla poco, insomma, diventa una cosa, soprattutto dopo il 73, fino praticamente all'inizio degli anni 80, di serie B, non va nemmeno in Rai, no? E infatti anche noi, in questo momento, dopo il 73, insomma, abbiamo fatto fatica a trovare dei brani esclusi. Abbiamo fatto una gran fatica, perché davvero dal 73 proprio la Rai comincia a trasmettere soltanto la serata finale. È una scelta della Rai che vuole privilegiare le produzioni interne, siamo in periodo di austerity, ricordiamo, naturalmente, sì, con le crisi, e quindi per risparmiare si riduce Sanremo a una serata in televisione. Questo porta a catena al fatto che i grandi nomi non ci vanno più. Più di Sanremo si parla sempre meno. Io, guardando negli archivi, ho controllato gli archivi di giornali mainstream, quindi il Corriere, la Stampa, quindi non parliamo di piccoli quotidiani, e davvero Sanremo finisce nelle parti basse delle pagine culturali, trattato con sufficienza, e questa cosa va avanti più o meno per tutti gli anni 70 fino all'80-81, quando abbiamo invece una rinascita. Va anche detto per un motivo, molto probabilmente perché con la nascita delle TV commerciali la RAI si ricorda che aveva Sanremo, e che quindi forse è bene sfruttare questo grande nome, perché comunque, per quanto appannato, era un grande nome della storia dello spettacolo italiano, e quindi magicamente si ritorna a fare tre serate in diretta, e poi sono diventate 4, 5, e chi più ne ha più ne metta. Eh sì, noi infatti facciamo un salto dal 73 all'82, dove troviamo questa band che si chiama Tempi Duri, con una canzone che si intitola proprio omonima, Tempi Duri, e non vi dico di chi è, perché insomma magari poi riconoscerete la voce, ma in realtà è una cosa molto particolare, e ovviamente anche questa canzone è stata esclusa in quell'anno 82 da Sanremo. Notti di ansia, atti di dolore, la gente che prega perché nasca una stella. Lo sanno anche i cani disperati della strada, lo sai anche tu, dovunque tu viva, dovunque tu vada. Lo leggi e lo scrivi su tutti i muri. Tempi duri. La stampa non ha gusto e continua a parlare di una generazione obbligata a sperare. E intanto bambini e soldati senza lavoro stanno già ripartendo per la caccia al tesoro. Non ti giocheresti un soldo, eppure lo giuri. Tempi duri. E guardi lontano ma non puoi pregare, non sai se fidarti di chi vive o chi muore, se anni indietro ho cominciato a sbagliare o tra quanti giorni potrò ricominciare. E intanto anche le stelle fanno gli occhi scuri. Sarà sempre tardi, ma non posso più aspettarti. Lo sanno anche i cani disperati e senza gloria, che l'ultimo a saltare in aria passerà la storia. Sono sogni maledetti, per niente sicuri. Tempi duri. questo pezzo ha una particolarità, Banzo, perché è stato escluso per, con una motivazione che è quella, insomma, il gruppo Tempi Duri che insomma si presentava, insomma, voi non potete partecipare perché non avete ancora nessuna pubblicazione discografica all'attivo, insomma, qui c'era anche una ragione, insomma. Esatto, la motivazione ufficiale fu quella. La motivazione adotta dal buon senso avrebbe dovuto essere: non potete partecipare perché questo brano è Salt and Soul Swing dei Dire Straits sotto falso nome con un testo diverso. E effettivamente, ricordi Steven, non so se lo facciano ancora, quando a Striscia la Notizia si accanivano il tapiro, alla... no? In funzione antifestival, nelle serate della Kermesse, a cercare i plagi improbabili, peraltro con una ignoranza della grammatica musicale sconcertante, quando poi alla fine qualche plagio reale c'è stato. Questo per me veramente sembra Salt and Soul Swing con qualche nota cambiata. Ma dobbiamo spiegare chi sono i Tempi Duri, sì. Oltre a essere dei grandi fan di Mark Knopfler, si tratta di un gruppo nel quale cantava e partecipava come compositore Cristiano De André, il figlio del più famoso Fabrizio, ecco, che produce e scrive, non accreditato, alcuni passaggi del testo. E verrebbe da dire, ecco, in un periodo storico nel quale ormai De André è arrivato a una santificazione paradossale, ha fatto anche lui un po', diciamo, i suoi svarioni, ecco. Quindi insieme a Massimo Bubola, quindi sì, insomma, ricordiamo anche che Tempi Duri non era solo Cristiano De André, nella band c'era anche Carlo Facchini, che è insomma l'autore del testo, della musica, teoricamente. La musica, vabbè, abbiamo già detto che è dei Dire Straits. No, però il testo effettivamente è autografo, questo va riconosciuto. Sì, va bene, andiamo avanti. Insomma, anni 80, Sanremo torna un po' in auge e ci sono nell'83 degli esclusi eccellenti, Mattia Bazar con questa canzone che è Palestina. Sentitevela qui. Thank you. questa in realtà è un'esclusione un po' particolare, perché in realtà non è che vengono esclusi Mattia Bazar, viene esclusa questa canzone, Fausto, su decisione della casa discografica che ne preferisce un'altra, e forse non si sono nemmeno sbagliati. No, direi proprio di no, però è curioso pensare come inizialmente la Ariston, che era la casa discografica di Mattia Bazar, volesse portare questo brano, perché appunto la ben più famosa Vacanze Romane non era ancora pronta, Carlo Marrale non aveva ancora composto il ritornello, praticamente la compone il disco, l'album che poi sarà il famosissimo Tango, l'LP che uscirà dopo Sanremo, è quasi pronto, manca proprio Vacanze Romane, paradossalmente il pezzo non è ancora pronto, la completa tipo 2 o 3 giorni prima del momento in cui i pezzi verranno inviati, e quindi questo brano viene scartato in ultimo. È un peccato perché è un piccolo gioiello, il testo di Aldo Stellita, che era poi il paroliere ufficiale dei Mattia, è veramente elaborato, ha è tutto ricco di metafore sulla situazione del Medio Oriente dell'epoca, che poi purtroppo è ancora quella attuale, e ha questa musica di Mauro Sabione, che ne approfitto per ricordarlo perché era presentissimo sui social con testimonianze sul periodo synth pop della band. Lui ci è rimasto solo per 3 anni, ma sono stati 3 anni significativi. È venuto a mancare purtroppo a dicembre scorso, e quindi aveva raccontato online tantissimi aneddoti ed è stata un'ottima fonte per poterne parlare qui da voi. Andiamo all'84, dove è Silvia Conti che è esclusa con questa Favola triste. Sentite già la musica completamente anni 80. Era la colpa di un amore sbagliato. Avrebbe avuto forse i capelli biondi. Avrebbe amato, ma qui già siamo in tanti. Tornò nel sole quel bambino mai nato. Disse al Signore, laggiù non m'hanno più voluto, ma per favore io ci vorrei tornare, non come uomo, ma almeno come animale. Devo dire sinceramente che questa delle canzoni che abbiamo ascoltato finora è l'unica esclusione che veramente approvo. Fausto, correggimi se sbaglio. Tra l'altro Silvia Conti, io davvero non so neanche chi sia, ecco, con questa Favola triste. Ma l'anagrafe è Silvia Tognelli, la cantante toscana. Attualmente fa più che altro attrice, ha fatto anche, ho visto, guardando un po' le biografie online, anche uno spettacolo su Gaber, quindi comunque anche, insomma, è attrice teatrale da diversi anni. Ha avuto questo inizio di carriera come cantante, credo che abbia fatto tipo 2 o 3 45 giri. Fra l'altro questo brano ha la musica di Pinuccio Pirazzoli, quindi autore importante. Un testo, diciamo, infatti. E fa molto M, diciamo, scritto da Depsa, cioè Salvatore De Pasquale, che per dire ha scritto Champagne per Peppino di Capri, però si decide ad affrontare la tematica anti-abortista 10 anni prima di NEC, quindi abbiamo un tentativo, però con questa bizzarra vicenda di un bambino mai nato, frutto di un amore sbagliato, quindi c'è la rima ovviamente, che sogna di reincarnarsi in un cane abbandonato, quindi questo cerchio veramente delizioso nel patetismo, veramente comunque, fa il giro, sono quei brani che fanno il giro. Ecco. Comunque, cioè, l'esclusione non è stata perché questa canzone fa schifo, ma perché in realtà l'aveva già cantata... Sì, ma perché l'aveva cantata Fiordaliso dal vivo, dicono, no? Esatto, l'ha cantata Fiordaliso qualche mese prima, quindi viene esclusa e la mandano a disco per l'estate, quindi comunque alla fine ha comunque avuto modo di raggiungere il grande pubblico, facciamo però con... Scusatemi se intervengo, devo anche segnalare che parte delle persone che hanno ascoltato il brano in quella esibizione dal vivo di Fiordaliso si sono poi reincarnati in cani abbandonati. Bando, eri in collegamento dal campo di Bari, no? Sembrava 90° minuto, 3-3, Bari-Atalanta, vabbè, andiamo avanti. Ezio Luzzi. Esattamente. Comunque Silvia Conti, per chi era rimasto così con questo dubbio, ci tornerà a Sanremo, si sarà ammessa l'anno successivo fra i giovani nel 1985. Noi però facciamo un salto già agli anni 90 perché troviamo un grande cantautore, insomma, e artista italiano che è Ivan Graziani, che sarà escluso nel 93 con questa sua canzone intitolata Blem Blem Blem. Eccola qui. Drogati amico mio, bucati, che diventerai famoso per il male che ti fai. Faranno seminari sul tuo caso disperato e forse Enzo Biagi ti intervisterà. 10 anni nel tunnel, poi la redenzione e forse un posto in comunità. E la gente per bene a casa dirà, in fondo un bravo ragazzo vedrai. Cambierà. Ammazza amico mio, uccidi, che diventerai famoso e forse un libro scriverai. Il tuo sorriso d'angelo dietro le sbarre di una gabbia in uno special si ammirerà. E forse qualche gasato, magari rapato, un club ti intitolerà. E la gente per bene a casa dirà, mio Dio che orrore, ma come farà? Ora dimmi che senso ha e dove si arriverà. Io non abbasserò lo sguardo e non sarò in ritardo per cantare ancora, ancora, ancora, ancora. E la gente per bene che cosa dirà, chissà cosa dirà. Incendi amico mio, offendi, perché in nome della razza qualcuno pagherà. Lucida l'acciaio degli stivali, perché con quelli poi tu dovrai colpire. E la violenza ha una fede, cresce dentro il cervello, chissà se lo capirai mai. E la gente per bene a casa dirà, chissà chissà, forse hanno ragione, chissà. Oggi ho conosciuto un ragazzo che studia forte a scuola e rispetta i genitori. Però sai, sicuro amico mio, che nessuno mai parlerà di lui. Niente servizi speciali nei telegiornali, ma sono normalità. E la gente per bene a casa dirà: cambia canale, che noia, per carità. Beh, questa è una canzone molto particolare, Banzo, perché in realtà quello che stiamo ascoltando è un provino di Ivan Graziani, perché la canzone Non ammessa poi non è mai stata pubblicata da Ivan Graziani. Giusto, canzone che è sempre rimasta a questo stadio embrionale, e anche così la voce di Ivan Graziani è strepitosa e sostanzialmente... pensando anche alla canzone che abbiamo appena sentito, insomma, gli spiccia a casa. E, comunque, Ivan Graziani riuscirà a partecipare a Sanremo nel 1994 col brano Maledette Male Lingue, solo alcuni anni prima della morte, che avverrà il primo gennaio del 97, a 51 anni, era molto giovane ancora. Comunque, a livello di testo, la canzone parlava un po' degli effetti nefasti della TV Verità, ed è forse, non so se esistono altre canzoni italiane che citino il nome di Enzo Biagi così per intero, una curiosità che mi ha colpito effettivamente anche a me. E tra l'altro, comunque, insomma, si inserisce molto bene nella fine della Prima Repubblica, le televisioni private e l'anno successivo l'arrivo di Berlusconi al governo del paese, quindi insomma Ivan Graziani sapeva sempre cogliere anche un po', insomma, la società nella quale viveva fin dagli anni 70. 94, un altro provino abbiamo, perché un'altra grande artista fu esclusa, parliamo di Giuni Russo, il brano si intitola La sua figura. L'estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù, apro le braccia al suo declinare stanco e lascia la tua luce in me. Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano giù. Mettimi come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza e la sua figura. Baciami con la bocca dell'amore, raccoglimi dalla terra come un fiore. Come un bambino stanco io voglio riposare, lascio la mia vita a te. Conosci, non puoi dubitare, tra mille affanni non sono andata giù. Rimani qui al mio fianco tenendomi per mano e lascio la mia vita a te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza e la sua figura. Musica silenziosa e l'aurora, solitudine che ristora e che innamora. Come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita a te. Banzo, so che tu ami molto Giuni Russo, non si può non amarla, è una canzone molto bella questa, La sua figura del 1994, anche questa non fu ammessa a Sanremo. Sì, forse perché era, spiccava troppo rispetto al livello delle altre, non so chi ha partecipato quell'anno, però un brano veramente meraviglioso, l'ho ascoltato in religioso silenzio e in questo caso l'aggettivo non è arbitrario, perché comunque il testo è molto ispirato ai testi di San Giovanni della Croce o San Juan de la Cruz in spagnolo, perché apparteneva al periodo, diciamo, più mistico di Giuni Russo. Ecco, anche qui, come nel caso di Ivan Graziani, una canzone non ammessa, però in questo caso la scomparsa di Giuni Russo è avvenuta poi non così a ridosso come nel caso di Graziani, visto che è purtroppo venuta a mancare nel 2004, comunque troppo presto. E questa canzone è stata poi incisa con l'aggiunta della voce di Franco Battiato, che aveva con lei un proficuo rapporto di collaborazione artistica amicizia, nel 2006 per l'album tributo Unusual. E comunque è sempre bello poter trasmettere un brano di Giuni Russo. Eh sì, andiamo avanti, facciamo un bel salto fino al 2006, ci arriviamo al presente, ci avviciniamo al presente, anche perché ormai ci resta una mezz'ora di puntata quest'oggi qui a Zibaldone, e troviamo per me un emerito sconosciuto, Stefano Pais, con questa canzone non ammessa a Sanremo in quell'anno, 2006, lo ricordo, Questo è il mondo. L'ascoltiamo e poi la commentiamo, ecco, perché c'è molto da dire su questa canzone. Questo secolo ormai trascorso, passato in un lampo pieno di avvenimenti, straordinari progressi, la pecora Dolly, il telescopio spaziale, Berlino e quel muro, le guerre mondiali, l'uomo va sulla luna e dai cavalli siamo passati ai Concorde. Madri 68enni, mani pulite, il nazismo e le vergogne razziali, il giro del mondo non più 80 giorni ma in 20 ore o poco di più, è l'avverarsi delle fantasie che raccontava nei libri Jules Verne. E questo è il mondo pieno di contraddizioni e di perché, è questo il mondo, gira intorno e girerà anche senza te. Stati lunghissimi, intervalli felici, questo è il mistero soggettivo del tempo, ma trascorre in fretta la gioventù. E questo è il mondo pieno di contraddizioni. Il tempo non Vabbè, direi un brano che forse hanno fatto bene ad escludere da Sanremo, un brano prescindibile, però Fausto, ecco, c'ha una peculiarità questa canzone, eh? Eh sì, perché questo brano di Stefano De Santis, questo è il vero nome di Stefano Pais, questo giovane, all'epoca giovane, penso che ancora giovane sia, cantautore un po' meno, romano, sì, un po' meno, sono passati un po' meno, questo, l'orologio biologico è quello, però se musicalmente ricorda un tantinello Bandiera Bianca, a me non mi sembra che sia la versione riveduta e corretta 2.0 o 3.0 di Bandiera Bianca, al testo, il testo è stato scritto da Margherita Hack, ebbene sì, curiosamente lui era amico, comunque conosceva la famosissima astrofisica, che coinvolge nella stesura di questo testo e tenta di presentarlo a Sanremo Giovani, che era la preselezione per andare al festival, sì, però non viene nemmeno messo in gara e quindi quell'anno non andò bene per i testi, diciamo, importanti, perché in quella stessa edizione i Jalis, e quindi citiamo il convitato di pietra di questa puntata, che insomma sono campioni mondiali di brani bocciati al Festival di Sanremo, che quello stesso anno provarono a portare in gara un testo scritto da Rita Levi Montalcini, quindi della serie, veramente c'era uno scontro fra titani e premi Nobel. Ecco qui Fausto, grazie per aver ricordato i Jalis, anche perché poi mentre preparavamo la scaletta ironizzavamo su varie quote, cioè canzoni che coprivano certe tematiche, certe. Ecco qui eravamo nella quota canzoni scritte con testi scritti da scienziati, anche canzoni un po' didascaliche. Comunque venendo ai Jalis, che sono effettivamente gli autentici ispiratori morali di questo speciale, abbiamo deciso di omaggiarli nell'unico modo corretto, che era non trasmettendoli. Perché bene. se è vero che da 25 anni, dopo fiumi di parole, provano a partecipare, ecco, non siamo noi chi vuole interrompere questo silenzio. Comunque li apprezzo molto per la coerenza, perché per altre cose farei anche fatica, sono un po' lontani dai miei gusti musicali. Ecco. Eh sì, loro ci provano, quindi sì, un premio all'impegno. Andiamo avanti, 2007, viene esclusa questa canzone che fu un grande successo, la riconoscerete subito, la voce è quella di una toscanaccia. Non pagare questo tuo profondo amore, questo tuo profondo. Bell'errore per la commissione di Sanremo rifiutare e non accettare questo brano di Rene Grandi, Fausto, eh? Eh sì, qui torniamo nella categoria dei grandi errori. Il brano avrà un successo davvero notevole nell'estate successiva del 2007, perché comunque Rene Grandi la proporrà in lungo e in largo ed è diventato negli anni uno dei suoi brani simbolo. Non è un brano scritto da lei, o meglio, lei firma qualcosina nel testo, ma essenzialmente è un brano di Francesco Bianconi dei Baustelle, come ben si sa. Lui gliel'aveva mandato come provino insieme ad altri tre pezzi, lei sceglie quello, vuole portarlo a Sanremo e convince Bianconi a modificare leggermente il testo, perché l'originale dice crepi da città, ci sono comunque alcuni riferimenti un po' più crudi, e poi la poetica di Bianconi che usa queste immagini, le modifica leggermente, non basta perché comunque non viene presa a Sanremo, ma il pezzo comunque ha avuto una grandissima vita successivamente. Fra l'altro avrei voluto fare la gag sul fatto che i Baustelle non erano mai stati a Sanremo, in realtà poi ho appena letto che credo che vadano nella serata dei duetti in duetto con Nico Macose, l'ho appena letto, quindi mi cade un mito che Bianconi era dato solo come autore, invece Baustelle dovrebbero fare, ho capito, un pezzo di Ricchi e Poveri, quindi della serie, non so. Lo scopriremo. Diciamo che poi io Sanremo attuale, vi dico, lo seguo azzerando il volume nelle parti non cantate, quindi diciamo io sento solo i brani musicali e metto il mute quando ci sono le interviste, gli interventi sulle fiction di Rai 1, che ovviamente lo scopriremo, esulano da miei interessi. Lo scopriremo la prossima settimana. Andiamo avanti di qualche anno e troviamo un grandissimo Roberto Fric Antoni con questo brano rifiutato anch'esso, ovviamente respinto all'Ariston. Ho visto un arcobaleno, era bellissimo, più bello di te non è possibile, però quasi. Ho mangiato un gelato, meraviglia golosa, più dolce di te non è possibile, però quasi. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti, regalami tutti i tuoi sospiri di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Fiammante, una moto velocissima, più formosa di te non è possibile, però quasi. Ho sognato di fare l'amore con Ivana Fakalot, più calda di te non è possibile, però quasi. Thank you. io non ho capito, Banzo, con chi sognava di fare l'amore Roberto Fricantoni in questa canzone, mi è sfuggito. Non è specificato, è probabilmente quel tu generico delle canzoni, però viene menzionata comunque Ivana Fakalot, ecco, sulla quale abbiamo fatto una ricerca, sembra fosse una pornostar, ma poi si trova pochissimo. Abbiamo visionato dei materiali che non possiamo trasmettere in radio, sì, e non solo perché siamo in radio. Ascolta, comunque, era il 2012 quando Roberto Fricantoni, dopo aver lasciato gli Schiantos, provò ad andare a Sanremo, ma insomma non fu accettato. Ecco, in un dialogo fra bolognesi con Gianni Morandi, che presentava l'edizione, gli venne chiesto di partecipare in duetto con un nome più celebre. Ci si ventilarono le ipotesi Elio delle Storie Tese e Luca Carboni, non andarono a buon porto, quindi la canzone venne cassata, ed è un po' un peccato perché comunque è un Fricantoni diverso dal solito, comunque molto interessante, meglio le strofe del ritornello personalmente, ma è una canzone che sapevo di voler inserire dal primissimo ascolto. A proposito di porto, visto che ne parlavi, non è andata a buon porto nel 2012, però Fricantoni ha detto, beh, con questa parola porto ci faccio una canzone. Esatto, sulla base di questa esclusione scriverà una canzone dal titolo Porto Dio, la commissione censura può stare tranquilla, abbiamo detto T e non quell'altra lettera. E comunque Fricantoni, abbiamo detto, è uscito dagli Schiantos, resta il cantante degli Schiantos, diciamo, nell'immaginario collettivo. Gli Schiantos hanno partecipato, cercato varie volte di partecipare a Sanremo, avrete loro notizie nelle prossime edizioni di questo speciale. Assolutamente, l'anno prossimo è molto probabile, continueremo, vedremo se successo. Noi però ci avviciniamo alla fine della puntata, e nel 2014 c'è un'altra canzone non ammessa di una interprete e cantautrice eccellente, parliamo di Alice. Fu rifiutata questa Veleni. Quando la terra si dissolverà nell'acqua, e l'acqua nel fuoco, e il fuoco nell'aria, e l'aria nello spazio, saremo liberi dalla materia. Si può essere felici se si è in pace con la mente, frammenti di cielo entrano in noi, rose gialle, prati verdi mi trasportano lontano dai veleni, veleni. L'avidità, l'odio, la rabbia, l'ignoranza, la confusione, l'attaccamento, la gelosia, il possesso, la follia, il rancore, sono veleni, veleni. Acque esatte impregnate di passaggi marini, nella luce più fitta sconfiggono i dolori. Si può essere felici in questa vita, in questo mondo, dove guerre e ingiustizie entrano in noi, riconoscersi è la chiave che aprirà qualunque porta. Veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni, veleni. terra si dissolverà, saremo liberi. Eh beh, insomma, inconfondibile la voce di Alice con questa Veleni che, insomma, Fausto, è stata anch'essa non ammessa, tra l'altro, insomma, contava con due autori di tutto rispetto. Assolutamente sì, perché gli autori sono Franco Battiato e Manlio Sgalambro. Fra l'altro credo che sia forse l'ultimo, uno degli ultimissimi pezzi che hanno composto assieme, perché Sgalambro è voluto mancare proprio in quel 2014, quindi credo che sia una delle loro ultime collaborazioni. Eh sì, insomma, comunque lasciano fuori a Sanremo sempre delle cose molto belle. Nel 2016, due anni dopo, certo, lasciarono fuori questa canzone, che insomma, vabbè, non è allo stesso livello, però avremo qualcosa da dire, ce l'ascoltiamo. Lui è Bugo, Me la godo è il titolo di questo brano di ormai 7 anni fa. Mentre il mondo va a rotoli e la gente vive di propoli e devi prenotarti mesi prima per andare su Stromboli, e mentre sui giornali in furia una nuova polemica e la gente non si rilassa più nemmeno la domenica, me la godo. Io me la godo. È stupido me che pensavo di essere solo e invece ho ritrovato i miei amici e con loro spicco. Io me la godo, l'avete capito il titolo di questa canzone di Bugo, non ammessa nel Sanremo 2016, Banzo, dal campo di Foggia come va? Sei sul dentro di Foggia, com'è la partita? Non mi ricordo dove sei. Beh sì, in questo momento diciamo le due squadre sono ancora in fase di studio e comunque siamo qui per parlare di Bugo in questo momento. A me questa canzone piace tantissimo, posso dirlo. Io sono fan di Bugo, ero più fan di Bugo nel suo periodo alternative scazzato, ma anche quando ha cercato di proporsi come Vasco Rossi dei nostri tempi o Celentano dei nostri tempi, perché ha sempre ammesso di essere un grandissimo fan del Molleggiato, secondo me aveva delle buone chance. Comunque Bugo ha una carriera lunghissima, io e Fausto lo vedemmo dal vivo alla Festa Unità di Ravenna, credo nel 2002, prima del suo ingresso in Major, un concerto strepitoso. E però ecco, è rimasto, nonostante questa carriera lunga, molto lunga, ai margini del grande pubblico fino ovviamente al 2020, quando riuscì a partecipare finalmente con il brano Sincero in duetto con Morgan. Ed ecco, è qui ancora diciamo un po' la sfiga che caratterizza la carriera di Bugo, perché effettivamente viene ricordato più per il famoso Che succede e il testo alterato da Morgan che per la canzone in sé, che secondo me era anche francamente bella. E appunto fu, forse ve lo ricordate, sono passati appena 3 anni, l'ultimo grande argomento di discussione in Italia prima che il Covid cancellasse tutto, diciamo l'ultima canzone del mondo di prima. E purtroppo, dicevo, la sfiga di Bugo, perché prima ovviamente vengono ridotti i meriti della canzone per questa storia extra musicale piuttosto inusitata, e poi ovviamente con il Covid Bugo perde la possibilità di fare un tour che gli avrebbe permesso di raggiungere una visibilità notevole, perché comunque, anche se per ragioni soprattutto extra musicali, in quel periodo tutta l'Italia parlava di lui, poi ci siamo chiusi in casa, come ben si sa. Effettivamente siamo davvero alla fine, Fausto, chiudiamo con una canzone che ha a che fare con il Sanremo del 2022, poi vedremo cosa succederà la prossima settimana, e quindi magari per l'anno prossimo avremo delle nuove canzoni non ammesse di cui parlare. Esatto, perché dei brani esclusi nel 2023 ancora non si sa nulla, molto probabilmente devono ancora uscire, quindi naturalmente si evita, ecco, di fare ancora i nomi. Però l'anno scorso sono rimasti esclusi Eugenio in Via di Gioia, quartetto torinese, che già era stato Sanremo sempre nel 2020, quindi la stessa edizione di Bugo e Morgan, loro eliminati subito. In questo caso non li hanno nemmeno ammessi, quindi diciamo. E fra l'altro hanno provato a tornare a Sanremo con un featuring d'eccezione, perché non potevamo non mettere comunque un piccolo riferimento a Elio, noi che siamo comunque fan di Elio e le storie tese. Visto che non ci sono effettivamente brani di Elio esclusi da Sanremo, perché fortunatamente le poche volte che ci sono andato li hanno sempre presi, però in questo caso è stato escluso brano che con il suo featuring. Esatto. Quarta rivoluzione industriale si intitola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone, vi salutiamo proprio con questa canzone degli Eugenio in Via di Gioia, insieme ad Elio di Elio e le Storie Tese, esclusa dal Sanremo 2022. Grazie davvero a Fausto De Salvia che ci ha accompagnato e al nostro Banzo, ci ritroviamo la prossima settimana e magari l'anno prossimo con questo nuovo speciale, se vedremo un po' cosa succederà nei prossimi tempi. Grazie Fausto. Grazie a voi, alla prossima, ciao. Grazie Banzo, ci ritroviamo noi venerdì prossimo, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid subito dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, verso le 19.55. Dal neutro di Foggia segnalo che fra Foggia e Paternò ancora 0-0 purtroppo, e comunque se guardate Sanremo fatemi un piacere, non twittate ogni 5 minuti le vostre opinioni del beep su qualunque vaccata, e se potete ascoltate le canzoni, perché si dimentica spesso che Sanremo dovrebbe essere una gara musicale e invece si parla di qualunque puttanata, scusate mi è un po' uscita. Grazie Banza, venerdì prossimo, buona serata a tutti, buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore e ascoltatevi questa canzone degli Eugenio in Via di Gioia. Sì, questa è la mia vita, basta dire di sì, la mia bellissima vita, che peggio di così non poteva andare, a questo punto qui si può solo guadagnare. Troverai te stesso lavorando da casa, quarta rivoluzione industriale, scrivania pulita, nordica, minimale, quinto piano senza ascensore, soppalcato, bilocale, divano, letto e pure ufficio, senza alzarsi mica male, in affitto ovviamente, così se vuoi da un giorno all'altro te ne vai, tipo un'offerta di lavoro via mail, ti sposi e voli a Dubai, vita dinamica, molto carina, senza gli orari, senza cucina, cena da sport, una piadina, non sporchi niente, fai pure prima, una firma qui, col tuo contratto. Da domani in poi sarai soddisfatto. Accetta, chiudi e vai. Naviga contento. E dopo tutto questo mi dici? Ci penso. Che ridere, che ci fai fare? Non scendi a compromessi, cosa ci vuoi dimostrare? Fai pure l'Ippi, pure il Gandhi, pure l'eremita. Ma fai qualcosa, produci, consuma e falla finita. Che ridere, che ci fai fare? Forza, sostieni la quarta rivoluzione industriale. E se sei felice, tu lo sai, guardati intorno. Prima pensare ai soldi, poi a cambiare il mondo. Le pensioni lasciamole ai vecchi, le mansioni agli operai. Un solo posto di lavoro tutta la vita? Mai! Tu sei molto di più, molto di più. Ieri stagista, oggi commesso, molto di più. Domani chissà, molto di più, cosa succederà? Tutore qui, presente dilatato. Lascia fare a me, dimmi solo che hai accettato. Ci penso. Che ridere, che ci fai fare? Non scendi a compromessi, cosa ci vuoi dimostrare? Fai pure l'IP, pure il Gandhi, pure l'eremita. Ma fai qualcosa, produci, consuma e falla finita. Che ridere, che ci fai fare? Forza, sostieni la quarta rivoluzione industriale. E se sei felice, tu lo sai, guardati intorno. Prima a pensare ai soldi, poi a cambiare il mondo. Sì, sì, sì, sì, questa è la mia vita. Bastava dire di sì, la mia bellissima vita. Che peggio di così non poteva andare. A questo punto qui si può solo guadagnare. Sì, sì, sì. Capo delle risorse umane, senta, io dopo anni di stagismo all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto, credo di essere proprio pronto finalmente per un contratto a tempo indeterminato. Che ridere, che ridere, che come ci dice? Fai fare? Non scendi a compromessi, cosa ci vuoi no, dimostrare? Cosa? Fai pure l'Ippi, pure il Gandhi, no, no, no. Pure l'eremita. Ma fai qualcosa, certo. Produci, consuma e falla finita. Che ridere, che ridere, che ci fai fare? Forza, sostieni la quarta rivoluzione industriale. E se sei felice, tu lo sai, guardati intorno. Prima pensare ai soldi, guarda, volendo posso fare il team building. Coffee break. Guardi, la mia dote migliore è sicuramente l'autoironia. Sì, sì. Ho implementato le mie soft skills. C'ho anche il certificato di resilienza. C'ho un benchmark della Madonna. C'ho tutto. Sono anni che aspetto. Ma sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,